prosegue il Rebbe Yosef Yitzchak e dice: Zehu, questo è il significato di quanto è scritto nella Torah, versetto già citato in precedenza, Ki menaseh havaye lokechem etchem ladat, il Signor, poiché il Signore vostro Dio, Hashem Elokechem, vi mette alla prova, menaseh, menaseh cioè vi sottopone a un nisayon, a una prova, perché ladat, per sapere, hayishchem ohavim, et Hashem Elokechem, se davvero volete bene, se davvero amate il Signore vostro Dio. Però qui abbiamo citato solo la parola ladat, per sapere. Non abbiamo citato per sapere se amate. Il Signore vi sottopone alla prova per la da'at, che qui traduciamo in maniera diversa, metaforica, non letterale. Il Signore vi mette alla prova perché questa prova vi fa arrivare a voi al da'at, al livello di consapevolezza e di conoscenza più elevato. Quindi non è lui il soggetto della da'at, della conoscenza, siamo noi. Il Nisayon ci aiuta ad elevarci. Il problema superato, lo superiamo perché? Perché per superarlo dobbiamo innalzarci. E questo è il motivo del problema, per farci innalzare. Ok? Allora vediamo il testo. Chi col ignana nisyonot, tutto il concetto delle prove che esistono è per un motivo solo. Ulla alot, per elevarsi, ulle hagia, agli dei ha'avodah davka, e giungere, in particolar modo attraverso una fatica e un impegno, quindi non è una cosa che può arrivare gratis, libchinat da'at et avaya, a un livello di conoscenza, di consapevolezza del divino, sheu le mala minateva. Conoscenza, si usa qui il nome tetragramma, shem havaya, yud kei vav kei, per indicare che il legame con HaKadosh Baruch Hu, attraverso il quale noi potremmo arrivare superando le prove, quindi scavando dentro di noi per trovare la forza per superare le prove, è un legame collegato ad HaKadosh Baruch Hu, come si manifesta al di là dei limiti della natura. Per questo usiamo non il nome Elohim, che indica HaKadosh Baruch Hu come creatore della natura, bensì il nome Havaya, che indica HaKadosh Baruch Hu come passato, presente e futuro, un tutt'uno, al di là dei limiti. Le mala minateva. Approfondiamo questo discorso. Dehanitzotzot shebagaluta acharon. Queste scintille di cui parlavamo prima, che ancora devono essere tirate fuori, diciamo così, in questo ultimo galut, in quest'ultimo esilio, ubifrat, e in particolar modo beikvot Meshichah. Ikvot Meshichah significa il tallone del Mashiach, significa gli ultimi momenti dell'esilio, gli ultimi momenti prima dell'arrivo del Mashiach. Hem nitzotzot shel nisyonot, sono delle scintille che si esprimono nelle prove. She'anitzotz Elohim mustar ve'nelam ba'em biyoter. Nelle prove, la scintilla divina, cioè l'intenzione divina in questa prova, è molto molto nascosta. È molto difficile, come dire, vedere, trovare in questo il motivo, il senso, cosa c'è in questa prova. E il fatto stesso che sia così nascosto è un'indicazione che il legame è ancora più elevato, che la fonte di questa scintilla, per così dire, è ancora più elevata nel divino. Deze gufa hu hora'a, questo stesso è un'indicazione, al godel shoresh malatan le mala mala yoter, quanto è elevata la loro fonte, come abbiamo anche detto prima, qui facciamo la famosa metafora, vikimeshala even sheberosh kotel. Come per esempio la pietra che si trova in cima alla muraglia, quando cade giù, dekshenofel mata, unofel beri chuk minakotel, cade lontano dal muro. Mentre invece quello che è più basso cade più vicino. Vechenu banitzotzot de tou, shenaflu le mata yoter. E così anche le scintille della realtà, del mondo, del tou, che sono quindi cadute ancora più in basso, e quelle che si trovano nelle prove sono ancora più in basso, quindi derivano ancora da un livello più elevato. Anitzotzot shebanisyonotem gevoim biyoter, sono molto elevate queste scintille, venaflu le mata yoter, sono giunte, cadute più in basso. Quindi qui stiamo facendo una distinzione che ora spiegheremo tra la normale attività della persona, attraverso la quale comunque fa scoprire delle scintille, come adesso vedremo, e ciò che avviene attraverso il superare una prova che è considerato ancora più elevato. Ora facciamo questa distinzione. In Jnana Nisayon, quando ci si trova davanti ad una prova, e in Okemo Shardvarim Agashmim Amidvarerim, è diverso da quanto si fa normalmente quando ci si occupa con le cose materiali nella maniera corretta, e questo fa sì che le scintille che vi si trovano tornino nella Kedushah, ritornino ad essere uniti con la fonte di santità. Cosa significa? Facciamo un esempio semplice. Ukemo ma'achal agashmi. Abbiamo un cibo, ovviamente materiale. Oshti agashmit, ho una bevanda. Abbiamo bevuto il caffè, ok? Shanitzot uba ma'achal amitbarer. Allora, è come se ci fosse in questo caffè una scintilla del divino che potrebbe andare in una direzione, potrebbe andare in un'altra. Potrebbe rientrare nella fonte in maniera positiva o potrebbe cadere nelle klipot, cioè nelle forze impure, nelle energie negative. Dipende da come io bevo questo caffè. Cioè, Kasher Adam ochel et ha-machal ahu al pi mitzvat ha-Torah. Se io bevo quel caffè o mangio quel cibo secondo come indicato nella Torah, quindi Shem mevarech alav techila vasof, faccio una bracha prima, una bracha dopo, veguf etzem achilato kedebae, e mangio anche come bisogna mangiare e bere, in aliedeise mevarere tamachal, e poi l'energia che prendo da questo caffè la uso per fare che cosa? Per studiare la Torah, per esempio, come abbiamo fatto stamattina. Allora, mevarer et tamachal, questo significa noi rendiamo raffinato quel cibo o quella bevanda, cioè lo facciamo elevare. Noi siamo in questo mondo per interagire con la materia in modo tale che attraverso il frutto di questa interazione sia un'elevazione per la materia. Si chiama raffinamento, letteralmente berur, levarer, come quando tu fai un raffinamento di un metallo come l'argento o l'oro. Tu devi togliere tutto ciò che è lo scarto e quello che è la polvere o la terra o quello che c'è, e poi esce fuori la scintilla raggiante della cosa stessa. In maniera simile noi facciamo questa metafora per le scintille, per così dire, del divino che si trovano in tutto quello che c'è intorno a noi. Dipende come prendiamo l'interazione, come interagiamo effettivamente con quella materia, in base a questo è la direzione in cui va questa scintilla divina. Quindi il potere dell'azione nostro è questo. Quando noi diciamo la persona ha il libero arbitrio, non è solamente il libero arbitrio per decidere io decido come vorrei agire. Il libero arbitrio significa che tu hai la potenza che in base a una tua decisione può cambiare un fenomeno cosmico. E questo è il punto. Cioè, attraverso... Perché se noi diciamo libero arbitrio fai quello che ti pare, allora faccio quello che mi pare. No, libero arbitrio significa io ho la potenza, no? Sì, ogni azione ha causa e effetto per tutti potenzialmente. Per tutto l'universo, diciamo così, per tutta la creazione. Ok? Perché in base a come io interagisco con quello che c'è intorno a me, con quello che io faccio, in base a questo va in una direzione o in un'altra. Per questo c'è scritto Vegam et ha'olam natan belibam. HaKadosh Baruch Hu mette il mondo nel nostro cuore. Significa in base a come è il nostro comportamento, e questa è la direzione che l'universo in generale prende. Cioè il libero arbitrio, in altre parole, è una grandissima responsabilità, e HaKadosh Baruch Hu ci dà questa responsabilità, come vedremo più avanti, con la forza per poter affrontare questa responsabilità. Quello che stiamo dicendo qui è che ci sono due aspetti. Il primo è quello normale, come stiamo dicendo adesso, interazioni con la materia, con il cibo, con la bevanda, come l'esempio che abbiamo fatto. In questo caso, ok, adesso dirà, attraverso il fatto che la persona trae energia dal cibo, dalla bevanda che assume, lo fa le Shem Shamayim per un motivo valido, con quella forza appunto studia, prega o comunque si occupa di cose positive o di mitzvot o di cose normali, ma non è sempre nello spirito voluto da Kadosh Baruch Hu. E allora, aliedei ze, mitbarera nitzot shebamachal, la scintilla che era presente in quel cibo viene raffinata, torna alla propria fonte in maniera positiva, ve olev nichlal ba'elokut, ritorna ad unirsi alla fonte divina dalla quale è venuta. Chen hu bechol advarim agashmiim, ofen haberur hu shemitasek bahem, validei ze mitbarer anitzot shebahem. Così è per tutte le cose materiali, che il modo di raffinarle, per rispondere alla domanda di Leo di ieri, per il modo di raffinarle è semplicemente l'interazione nella maniera corretta. Quindi non quello che ci viene in mente, no? Vai a cercare dove sta come un caccia al tesoro. Semplicemente l'interazione in maniera voluta dalla Torah con quello che ci circonda è il modo di far raffinare le relative scintille del divino. Questo è per tutto ciò che riguarda l'interazione umana. Interumana o in generale umana con l'ambiente che lo circonda. Questo perché, ed è ovvio ormai, perché visto che la scintilla è, per così dire, nascosta in quegli elementi materiali, allora il modo di raffinare, il modo di fare rielevare è attraverso l'interazione con quegli elementi materiali. Cioè il caffè, non posso dire, ok, non lo bevo, allora questo fa raffinare la... No, lo devo bere, deve diventare una parte di me, e in questo, fatto nella maniera corretta, così che faccio elevare il nitzotz. Ora, il contrario assoluto è il discorso delle prove. La prova significa normalmente qualcosa che tu devi superare, quindi evitare. Devi andare oltre, ok? Quindi è un altro tipo di dinamica adesso. E come vedremo è considerato più profondo. Vediamo. Ho saltato qualche riga nel testo e lo troviamo. Mashe en ken banisayon. È verso la metà di questo paragrafo, ultimo paragrafo di questa pagina 4. E la riga inizia Ba'elokut, poi c'è una virgola. Sì. Ma she'en ken banisayon, nelle prove è diverso. Ofen haberur, il modo di raffinare, ullo ba'itaskut bo'atzmo, è attraverso il non occuparsi della problematica stessa, della prova stessa, che im benzi ba'itaskut adam imatzmo, l'occuparsi con se stesso, la persona con se stessa, cioè lehit gabbera la nisayon, trovare dentro di sé la forza di superare quella prova. Quindi se nell'ambiente normale il discorso è di avere a che fare con qualcosa esterno a sé, quando si tratta di una prova diventa diverso. E la questione è di avere a che fare all'interno di sé. Per superare la prova la persona deve trovare la forza dentro di sé, non deve andare ad esaminare la prova, deve esaminare se stesso. Quindi è se stesso che diventa il soggetto del lavoro, mentre nel caso normale è l'oggetto al di fuori di sé che è il soggetto del lavoro. È il caffè o è l'interazione con l'esterno. In questo caso che noi siamo sottomessi alla prova, allora il soggetto divento io. Io sono quello che mi devo sottomettere a una introspezione, a un approfondimento, per trovare in me la possibilità di superare questa prova. Scusa, la prova sì? È una situazione che capita o è stavo uno stato la stessa in cosa, cui ora mi vediamo trovo? Forse, penso. Stavo potrebbe essere entrambe. Potrebbe essere qualsiasi tipo di prova. È una situazione. Normalmente, normalmente si intende una situazione. È evitare un istinto, sarà qualcosa di questo tipo. Anche. Cioè una persona viene messa alla prova, significa che le cose normalmente funzionano in una certa maniera e non funzionano più in quella maniera. Dove tu dici uno più uno dovrebbe voler dire due, ma non lo vedo questo due. Vedo meno uno, magari, no? O potrebbe essere anche quello che dicevi prima, cioè non sapere che si è responsabili dell'effetto di una propria azione. Okay. Se fatto in un certo modo, invece la fai in un altro, cioè voglio dire, trattare la natura, quello che dicevi dire, sfruttarla a proprio vantaggio per ricavarne energia, sì, meditazione, sì. E invece non farlo. Non farlo anche ma questa non è... paradossalmente, l'ho estremizzato. No, non lo considero una prova in questo contesto, non che non è una prova. Non credo in questo contesto si intenda questo, perché questo significa Quello volevo dire, anche il quello. trascurare quel primo aspetto. Quello non è che tu sei stato sottomesso alla prova, quello che sei tu hai trascurato, quello che dovrebbe essere il tuo Proprio questo volevo dire, compito. anche quella non è una prova. Questa non è la prova. Ok. La prova potrebbe essere il motivo per cui ha trascurato. Il dubbio, ma Perché forse sei stato sottomesso ad una situazione o ad una idea o quello che è quella la prova che ha fatto sì che tu hai sbagliato direzione, forse. Capisci quello che intendo? assolutamente. Allora, la prova normalmente si intende una cosa inaspettata, una cosa. Le cose vanno in una certa maniera in un certo momento. Anche verso le reazioni, verso gli altri Può essere esseri, nel lavoro, può forse, essere nelle certo. interazioni con le altre persone, può essere in qualsiasi cosa. Uno viene sottomesso alla prova, no? Sentiamo tante volte tante problematiche che persone hanno, che tutti noi possiamo avere in un momento o in un altro. Allora la Torah ci sta dicendo, queste problematiche non è perché qualcuno ce l'ha con noi, bensì dobbiamo vederlo come una prova. E cioè, se è una prova, diventa qualcosa di molto profondo, che come abbiamo detto all'inizio, che Menassè è per elevarci. Noi possiamo fare un percorso normale, ma finché non veniamo messi alla prova, non tiriamo fuori quell'altra profondità che c'è dentro di noi. E quindi diventa una spinta per un'elevazione. Questo che adesso diremo, vediamo un attimino solo la conclusione del paragrafo e approfondiamo. Lui qui sta dicendo così: l'oggetto materiale con il quale tu interagisci è qualcosa di esterno, è qualcosa con il quale tu interagisci in una maniera corretta e, diciamo così, arrivi ad una maggiore perfezione e fai arrivare il mondo a una maggiore perfezione. La prova non è considerata una cosa di per sé con la quale interagire. La prova è lì proprio perché tu la superi. La prova è lì proprio per nascondere la realtà. Per confonderti, È un ostacolo. è un ostacolo, bravissimo. Tutta la forza della prova sta nel suo essere un ostacolo, sta nel suo nascondere la situazione reale. Allora, il discorso lì per superarlo è in sé per guardare oltre la prova. Buongiorno. È per guardare oltre la prova, è per trovare in sé la forza dell'anima, come dice qui, Tokef HaNeshamah. La fermezza e la forza dell'anima, e la definisce questa cosa, Nekudat HaYahadut, il puntino di ebraicità che si trova all'interno della Neshama. Cos'è questo puntino di ebraicità? Nekudat HaYahadut significa l'essenza dell'anima. Perché l'essenza dell'anima? L'essenza dell'anima è qualcosa che non può essere, non può venire a meno nella persona. È qualcosa di molto profondo e a volte non lo si sente e non è visibile, non è evidente, ma il punto di questa idea è che è sempre presente. Come quando si dice, potrebbe essere un ebreo che non fa niente, non fa Pesach, non fa Kippur, non fa, è sempre ebreo. Cosa significa essere sempre ebreo? Ha sempre quel puntino dell'ebraicità dentro, nell'essenza dell'anima, che potrebbe diventare una fonte. L'entrare in contatto con questo puntino potrebbe farlo esprimere e diventare una fonte di kedushah, una fonte di illuminazione. Quindi il soggetto della prova deve essere non la prova, deve essere la persona. Questo è un punto molto importante perché per istinto, quando siamo sottomessi ad una prova, tendiamo ad occuparci della prova. Cosa significa? Perché così? Perché cos'ha? Cosa rappresenta? Forse significa questo, forse significa quello. Sbagliato direzione. Il soggetto non è il problema. Il soggetto è la persona. Sono stato sottomesso alla prova, allora devo entrare dentro di me. Devo trovare le forze per superarla, indifferentemente di quale sia la prova. Non che una persona non deve capire quello che ha davanti, sì, però non scambiare le priorità. La priorità nella prova non è di capire la prova, è di capire la forza che c'è dentro di sé. Cambia la direzione. nel caso normale diciamo, modalità normale di andare avanti, dobbiamo interagire con quello che è intorno a noi. Il soggetto non sono io, bensì tutto ciò che è la materia con cui vengo a che fare, le interazioni, le azioni, eccetera. Questi sono i soggetti. E facendoli nella maniera giusta, rientro in quello che la Torah vuole. Ma quando sono sottomesso alla prova, allora lì il soggetto divento io. Lì il soggetto diventa trovare dentro di sé la forza per superare. Nekudat Hayahadut, quel puntino di essenza che bisogna scavare per arrivarci. E questa è la cosa che dà forza per rimanere fermo davanti a qualsiasi tipo di Di ostacolo, prova, di assalto. Sì, però vi voglio dare un attimo un contesto sì, storico. basta. Perché questo discorso, così come molti altri discorsi, in particolare di tutti i maestri, ma in particolare del Rebbe Yosef Yitzchak, è stato pronunciato questo discorso nel 1929, e c'è un legame molto chiaro Con con la la storia. situazione degli ebrei nell'Unione Sovietica. Perché quando noi parliamo di prove, ognuno ha le sue prove e Qui non più vengono, contestualizzata la non storia, vanno eh. diciamo, rese meno importanti. Però in contesto storico, quando parliamo di una prova a livello grandissimo, una prova significa tu sei messo alla prova proprio per esprimere il minimo livello di ebraicità. E Anche legato a Canucca, per certi versi, quindi un anche po' di legato più, a Hanukkah, esattamente. un po' di più. A Hanukkah l'ellenismo, l'assimilazione era una prova alla Non quale era una erano prova salita, sottomessi. salita, Queste anzi. sono le prove più grandi. Quindi quando noi parliamo di prove nel contesto ebraico, stiamo parlando soprattutto, oltre alle prove personali, ma Anche collettivi. alle prove collettive o anche personali, ma Sì. nell'ambito di mantenere la propria ebraicità o di far crescere la propria ebraicità, e lì vieni sottoposto alla prova. O a livello istituzionale, come era il contesto lì, Unione Sovietica, per dire il contesto storico di quel momento, che l'istituzionalità del governo faceva sì che tu non potessi esprimere il tuo ebraismo, che tu non potevi fare una milà a tuo figlio, così come era Hanukkah con i greci, i greco-siriani, una delle cose era contro la milà. Ok? Quindi, cosa devi fare? Qui lui sta dando forza a queste persone per trovare dentro di sé la forza di andare avanti comunque e di fare il necessario, il dovuto comunque. Quindi questo a livello istituzionale, oppure a livello personale anche delle prove che ci potrebbero impedire di crescere nel nostro ebraismo, di esprimere di più il nostro ebraismo. Potrebbe essere un contesto di qualsiasi tipo, un contesto sociale, un contesto di famiglia, potrebbe essere tante situazioni che dicono: beh, se faccio questo, allora la barca inizia a perdere l'equilibrio, allora è meglio che evito. Questa è una prova. Queste sono davvero le prove di cui stiamo soprattutto parlando in questo contesto, ok? Quindi ci sta dicendo: c'è qualcosa dentro di te che è la Nekudat Hayahadut, è questo puntino della Neshama, è l'essenza dell'anima, che può superare queste prove, cioè che ti può dar forza di superare queste prove, per la quale, Neshama, appunto, questi non sono veri limiti, sono delle prove. Noi abbiamo definito la prova come qualcosa che nasconde la realtà, quindi che va affrontata non la prova stessa, ma va affrontato quello che noi abbiamo dentro di noi per superarla. È come se dicessimo che una volta svelata quella forza, la prova non è più una prova, la prova non nasconde più la realtà. In altre parole, il contesto delle prove di cui stiamo parlando soprattutto, come dicevo, è una cosa che è una prova solo se noi consideriamo una prova. È una cosa che abbiamo dentro di noi, E perché quindi è una cosa che certo. abbiamo dentro di noi, esattamente quello sta dicendo. È una Oggettivo. questione di Certo. soggezione alla situazione secondo quello che è la nostra Se non la percezione. vedi così. Il superare la prova significa anche cambiare percezione. Con l'aiuto della forza che abbiamo dentro, che HaKadosh Baruch Hu ci dà. Anche quando dici capitano tutte a me. No, sì, se sì, anche sì, è una sì. percezione, se tu lo vivi come Assolutamente dire sì. capita e già non capisci che invece è una prova, Assolutamente dai la sì. colpa a qualcun altro. Mi è capitato, Sì. infatti, mi è capitato una cosa, Sì. infatti ho cercato, no, nel comportamento quello che prendi, dove è che sbagliavo, perché lo Bravo. prendevo come un segnale praticamente. Sì, la prova è Mi un dicevi uguale, segnale è e non uguale, è, vedi? so è una Vedi? fase è il dire cosa devo migliorare dentro di me, ok? E un'altra fase è questo è un modo per farmi diventare di un livello più elevato, cioè non è solo migliorare nel senso che c'è una carenza e ora l'ho aggiustata e torno a essere normale, no? Arrivo a qualcosa di molto più elevato rispetto a quello che era prima normale, ora il normale sale la soglia di quello che è normale per me. Capito? Cioè, una percezione, come abbiamo detto, la Da'at, consapevolezza più profonda, ci si arriva appunto attraverso il superare queste prove, attraverso il scavare dentro di sé e trovare qualcosa di più profondo. E la prossima volta si approfondirà. Come questo aspetto qui della nostra Avodat Hashem, del nostro servire a Kadosh Baruch Hu, è particolarmente legato all'ultima fase prima della Questo venuta voglio del dire. Mashiach. E più celato, cioè più si avvicina Più il ci si momento e avvicina più e più nascosto. avrei pensato il contrario. Esatto, invece no. E più Sta diventa proprio, difficile la sta prova. arrivando il Mashiach, si Cioè, rivela c'è più una velocemente, rivelazione che. pensavo, avrei pensato il contrario. Più difficile è la prova Invece e avrei più pensato che elevato è sta per l'esito. arrivare, pian, si sta E questo svelando lo più vedremo più facilmente. avanti.